America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24, un'esplosione di follia, di contagio, di febbre per l'acquisto a Wall Street con il debutto in borsa di LinkedIn, un sito internet che ha triplicato in poche ore il proprio valore dal momento dell'emissione. Siamo dunque tornati alla febbre di internet, siamo dunque tornati alla bolla, dobbiamo chiedercelo perché questo titolo LinkedIn, vi dico che cos'è, molti di voi probabilmente non lo conosceranno, ma LinkedIn è un sito internet che è destinato soprattutto a uomini, donne d'affari, a professionisti, quali trovano, offrono lavoro, una specie di Facebook in sostanza per professionisti e per imprenditori. L'idea è che questi sottoscrittori, circa 100 milioni di utenti, siano un pubblico pubblicitario di grandissima attrazione e che questo sito crescerà come è cresciuto Facebook fino ad avere centinaia di milioni di abbonati. E dunque il mercato ha scommesso su questo. C'è stato un piccolo imbarazzo perché Morgan Stanley, che ha curato insieme ad altre banche il collocamento, aveva dato una valutazione di $45. All'apertura, intasata per un eccesso di domanda, il titolo è schizzato subito a $83 e dopodiché rapidamente è arrivato addirittura a $122 per azione, una capitalizzazione superiore ai 10 miliardi di dollari per un'azienda che ha un fatturato di $250 milioni e che ha avuto l'anno scorso un profitto di $15 milioni. Let me be clear. In addition to the bracelet and the video, there is a human being with a gun who is on duty 24/7. Dominique Strauss-Kahn, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, ha dato le dimissioni, lo sappiamo, è riuscito ad ottenere anche una cauzione. Tuttavia è stato incriminato formalmente e dovrà andare in tribunale per uno dei processi che diventerà sicuramente un grande tormentone americano, un grande processo americano in settembre. La magra consolazione di Strauss-Kahn, vi dicevo, è quella di aver ottenuto la libertà dietro cauzione, una cauzione impegnativa, $1 milione in contanti, tanti, la garanzia della casa in Maryland che vale circa $4 milioni, più altre garanzie per un totale di $5 milioni. Strauss-Kahn avrà anche un braccialetto, il suo passaporto è stato sequestrato, questo braccialetto consentirà alle autorità di monitorarlo 24 ore su 24, non solo, la moglie si è impegnata a pagare un'agenzia di agenti privati che controlleranno 24 ore su 24 i movimenti nel palazzo dove andrà a vivere Strauss-Kahn. Dunque una vittoria molto parziale, fino a settembre sarà libero, poi comincerà il processo, continuerà ad essere libero, poi i 7 capi d'accusa, se sarà riconosciuto colpevole in quello che sarà un confronto epico fra lui e la cameriera dell'albergo che lo ha denunciato per essere stata violentata, potrà scontare pene fino a 74 anni di prigione. Our message is simple. If you take the risks that reform entails, you will have the full support of the United States. E veniamo al piatto forte della giornata, veniamo alla storia. Barack Obama, come avete sentito dalle poche parole che vi ho fatto ascoltare, ha ridisegnato ieri l'intera mappa medio orientale. Attenzione, non la geografia topografica naturalmente, ma quella dei valori, dei rapporti economici, di quelli politici. È stato un discorso molto lungo al Dipartimento di Stato, il Presidente ha auspicato, ha promesso che dai focolai rivoluzionari in tutta la regione e da un successo in particolare per le riforme democratiche in Egitto e Tunisia si arriverà non solo alla libertà, alla democrazia, all'emancipazione delle donne, ma a un vero e proprio rinascimento economico del mondo arabo che, ha detto il presidente, ricompenserà i giovani che cercano un futuro di prosperità e un nuovo patto, insomma, quello che propone il presidente americano per la modernizzazione del mondo arabo. E l'offerta è chiara, ve l'avevo anticipata ieri, è quella di dare ingenti aiuti economici in cambio di riforme democratiche durature. We do not want a democratic Egypt to be saddled by the debts of its past. So we will relieve a democratic Egypt of up to $1 billion in debt and work with our Egyptian partners to invest these resources to foster growth and entrepreneurship.